Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. Sesta puntata. Dormo profondamente, mi sveglio senza problemi, cervello pulito e fibre elastiche, schizzo fuori dal letto. Dormo bene da quando Giulio mi ha passato delle pastiglie di melatonina e la mattina riesco anche a parlare con Sara come fossimo due individui normali. Lei racconta idiozie televisive che l'hanno tramortita la sera precedente. Non so mai cosa dirle, ma ho una sensazione artificiale di beata medietà. Devo reprimere emozioni, sbalzi di umore. Il primo allenamento inizia verso le 10, 17 chilometri, circa un'ora di corso a lungo territori desolanti che hanno perso identità. Macerie post-industriali su terreni inariditi. Zingari e psicopatici tra asfalto e vegetazione morente seguono il mio passo agile. Arrivo a costeggiare un parcheggio che brulica di auto, si inseguono come su un'autopista. Gli scambi di coppie e la prostituzione maschile in questa zona non si fermano nemmeno nelle ore diurne. Una misteriosa attrazione spinge il mio corpo pulito e allenato verso lo sporco e l'umanità più inquinata. Nessuno mi ha mai dato noia. Riconoscono in me un corpo talmente estraneo da considerarsi inviolabile. Addosso non ho portafogli né telefonini. Ignorano che il mio orologio satellitare e il cardiofrequenzimetro avrebbero mercato. Solo il cane bastardo di un ragazzino albanese mi ha azzannato una grigia mattina di ottobre. Il mio pensiero era volato a Fulvio Costa, giovane mezzofondista di talento che nell'82 crepò in un letto d'ospedale dopo il morso di un cane, qualche giorno dopo l'antitetanica. Contemporaneamente qualcuno iniziava cavalcate mondiali e olimpiche. Svuotarsi di sangue proprio per reintrodurselo arricchito. O comunque privo delle tossine di mesi di allenamenti, pulito, troppo pulito, ripulito anche di anticorpi. Qualcuno crepava e qualcuno volava. Braccia segaligne al cielo, occhi nerissimi, spiritati, il solito delirio di onnipotenza. Ancora non era il tempo degli africani allenati scientificamente. Si accontentavano di record mondiali e crolli improvvisi nei grandi appuntamenti. E dove sarebbe l'etica di questa storia? La lezione? Zero. Solo un elenco di fatti e variabili. Sapevo che non sarei morto per il morso di un cane o per un'antitetanica. In realtà nessuna prova scientifica collega l'autoemotrasfusione al calo delle difese immunitarie. E comunque la casistica statisticamente remota non avrebbe fatto di certo il bis. Il morso era profondo e doloroso. Non aveva reciso tendini o muscoli. Era bastata una piccola medicazione al pronto soccorso e un'antitetanica. Non avevo saltato gli allenamenti. Odio i cani e gli albanesi. Odio perdere sedute di allenamento. Uso sostanze che l'antidoping nemmeno cerca. Uso sostanze per recuperare sforzi massacranti. Sposto in avanti i limiti del mio organismo. L'espressione che più detesto è «vado contro natura». L'adattamento all'usura organica aumenta la parte liquida del sangue e ammazza i globuli rossi. L'EPO ristabilisce il numero dei globuli rossi, visto che la natura lasciata da sola fa cazzate, avara com'è. Gli atleti che corrono al mio livello usano gli stessi prodotti. La posologia varia, a seconda della tolleranza individuale e del peso corporeo. Gli atleti fermati durante i controlli vengono beccati per prodotti inutili, per piccoli stupidi errori. Eccitanti che non modificano la cilindrata del motore, innalzano solo la cattiveria e il battito cardiaco. Maratoneti risultati positivi al test antidoping per aver usato incautamente spray nasali anticongestionanti. Piccole rifiniture fai da te che si concedono, magari all'oscuro dei loro preparatori, consigliati da altri atleti. Negli spogliatoi avevo assistito a litigi furibondi che fino allo scorso anno non capivo. Seguivo casualmente scontri che parevano non avere senso, Gli atleti guardavano il pavimento e allargavano le braccia. In passato i loro allenatori erano stati più disciplinati e i prodotti più pericolosi per la salute. Ho letto da qualche parte che il GH e il testosterone potrebbero svegliare cellule tumorali nel nostro corpo, accelerandone la produzione. Io non mi ammalerò mai, non ho il tempo, il mio pensiero è altrove, il mio fisico cesserà di esistere per consunzione. Nessuna cellula dormiente svegliandosi accelererà la morte replicando errori. E poi qualche testa di cazzo ha detto che la vita non va allungata, va allargata. E il testosterone è una barriera ormonale che sento ogni giorno più necessaria. Il contatto con la malattia è quanto di più remoto. Spesso atleti di valore colpiti da malanni appaiono increduli. Si abbandonano a depressioni fortissime oppure si dimenano senza voler arrendersi, abituati a combattere. Formano associazioni, continuano a ripetere al mondo che sono alle prese con la gara più importante, che arresteranno l'avanzare delle cellule tumorali con la determinazione che ha puntellato la loro vita agonistica. Alcuni, dopo essere stati aperti e richiusi in sala operatoria, hanno ripreso a gareggiare come niente fosse, sordi alle raccomandazioni di medici che non possono capire. Tornare alle gare significa rimuovere l'idea della morte, riportare il proprio fisico al massimo delle potenzialità, come se niente fosse, come si è sempre fatto. È profondamente ingiusto che un atleta si ammali. Il suo organismo ha retto e riprodotto prestazioni fuori dalla norma e non può cedere minato dagli stessi agenti patogeni che debilitano l'umanità media, quella che si limita alla vita d'ufficio, quella che si ingozza negli agriturismi o che si accende sigarette a ripetizione tra un drink e l'altro. È naturale che questi cedano il passo. È giusto. Cherono nel secondo allenamento giornaliero mi ha staccato. In teoria era un allenamento allegro, ma non estremo. Un'ora su strada da correre al 60% della velocità massima in gara e una progressione finale negli ultimi 3 chilometri all'interno della pista. 7 giri e mezzo. Ogni giro da correre più veloce di 4 secondi rispetto a quello precedente. L'ultimo a tutto. Non ci sono arrivato all'ultimo giro. Ho mollato al primo dei 7. Ero già in difficoltà nel tratto su strada. Gambe di legno, secche, quadricipiti insensibili, acido lattico, anche sul tronco, spalmato su pettorali e spalle. Capisco subito quando non è giornata. L'organismo non va in temperatura. Non si innescano i legami chimici che producono e distribuiscono ossigeno ai tessuti. Quando capita in gara sembra semplicemente che sia partito troppo forte rispetto al mio potenziale. Chi segue la gara può avere questa superficiale impressione, questa percezione mi infastidisce profondamente. A nulla valgono le giustificazioni del dopogara, a nulla valgono i buoni risultati delle gare precedenti. L'atletica sembra divorarsi in un present continuous spietato. Dopo una partenza nelle prime posizioni, inizio a perdere contatto degli atleti con cui mi sono ripromesso di battagliare. Da dietro sopraggiungono avversari più modesti che mi passano sopra. Il tentativo di stare incollato a quelli che mi rimontano è patetico. Dopo poche centinaia di metri dalla partenza è tutto tragicamente chiaro. Non ci sono speranze di raddrizzare la gara, ma continuo a spingere. Il gelo aggredisce tutto il corpo, non ansimo, ma sono bloccato. Mi sembra di essere in un incubo infantile. Sono in una giostra, posso vedere tutto, ma non posso interagire. Sono solo spettatore. Nel dopogara non parlo. Mi chiudo a riccio mentre mi cambio gli abiti sudati e armeggio nella borsa. Se è una campestre posso isolarmi in una maniacale pulizia delle chiodate. Non condivido con nessuno la piccola tragedia. Non faccio defaticamento con i compagni di squadra. Rimango muto quando chiedono il tempo che ho fatto. La mia espressione dovrebbe farli desistere da ogni scassamento di cazzo. È ovvio che non ho spinto il cronometro all'arrivo. Perché avrei dovuto farlo? Non è già tutto sufficientemente umiliante. Sono concentrato sulla gara successiva, quella del riscatto. Il problema non è sbagliare una gara. Il terrore mi assale perché valuto la possibilità che possa essere solo il primo smottamento di una frana definitiva. Tanti atleti hanno involuzioni tecniche che in pochi mesi li portano ad eclissarsi, ad abbandonare l'attività agonistica. A volte le ragioni sono note, oggettive, infortuni per lo più. In altri casi più misteriose. Dovrebbero avere a che fare con mutazioni derivanti dall'invecchiamento, ritenzione idrica, accumulo di grassi, rallentamento del metabolismo, vasocostrizione arteriosa, calo del livello di testosterone, cose del genere. Sono terrorizzato. Non ho una vita di scorta. La mia decisione di iniziare un trattamento farmacologico serio è stata inevitabile. Non posso permettermi codici etici. Non posso permettermi di fallire dopo i risultati ottenuti nelle categorie giovanili. Fin dai 16 anni ho iniziato allenamenti bigiornalieri. Non ho finito gli studi superiori, non ho nessuna manualità, non ho idea di come si costruiscano i manufatti di cui sono circondato. Nemmeno il padre di Sara potrebbe aiutarmi inserendomi nell'azienda farmaceutica dove lavora a livelli di management. Le mie scarse capacità di comunicazione con gli altri esseri umani non mi consentirebbero di intraprendere attività collaterali al mondo dell'atletica, come rappresentante di materiale sportivo o allenatore in una palestra. Risulto sempre snobbistico dopo scontate cose che la gente recepisce a fatica. Penso che Cherono prenda le stesse sostanze che prendo io. Lo penso e mi sale la rabbia. Non può essere su questi livelli a pasta asciutta e vino rosso. Giulio ha detto che ai tempi d'oro anche lui era pieno come un uovo di testosterone, EPO-GH. I test antidoping erano piccole farse. I medici che seguivano gli atleti urinavano nelle provette. Un medico accompagnatore era ammesso nell'ambulatorio. Questo escamotage era la norma. Giulio conosceva il manager di Cherono, un atleta belga di un buon livello che al tempo gareggiava ancora e ricordava bene la serata a Oslo in cui un altro nero aveva battuto il muro dei 27 minuti sui 10.000. Cherono aveva tirato come un matto la gara, tenendo i tempi in tabella mondiale per 14 giri su 27, ma non si era ritirato, chiudendo doppiato e quasi al piccolo trotto. Il recordman con un braccio teneva la bandiera del loro paese, con l'altro lo aveva cinto aspettandolo all'arrivo. Cherono era parso intimidito. Si era unito in un giro d'onore davanti al pubblico entusiasta e competente. Il campione si era fermato sotto la tribuna per abbracciare la moglie bianca. Il metronomo nero, nelle due stagioni, si era assicurato discrete borse in meeting di seconda serie e altre prestazioni da lepre. Poi è entrato nel circuito delle gare su strada negli Stati Uniti e infine si è stabilito in Italia, dove aveva esordito nella maratona. Giulio sa tutto. È stato fuori dal giro dell'atletica che conta per un po' di tempo, ma da un paio di mesi si reca presso centri federali sulle Alpi e nel centro Italia. Torna con aneddoti gustosi e notizie in anteprima che trovano conferma nei risultati delle gare più importanti. Mi piace starlo a sentire. Sa come procedono gli allenamenti degli atleti del Club Italia. Molti non arriveranno a Pechino 2008, troppo vecchi. Le sue anticipazioni su quelli emergenti e quelli che si sono bruciati mi ammutoliscono. Non mi identifico in nessuna delle due categorie, ma il mio limbo mi mette in quietudine. Non lo sento più come un riparo. Sono in rampa di lancio e mi faccio staccare da un'ex gloria di mezza età. Giulio ha seguito le ultime fasi della progressione che abbiamo concluso in pista. Non ha commentato il mio arrancare fuori sincrono con il resto del mondo. La mia disarmonia fuori soglia aerobica. Ha parlato di altri atleti, poi mi ha chiesto di interrompere l'assunzione di EPO. Così, senza una spiegazione. Una settimana prima un ciclista dilettante era stato trovato morto nella sua casa di montagna. La mensola sotto lo specchio del bagno pareva il bancone di una farmacia, ma senza dentifricio. Nel weekend la magistratura aveva ordinato perquisizioni negli alberghi che ospitavano i concorrenti di una gran fondo delle Alpi amatoriale. La prima tappa partiva dal paese del ciclista morto. In questi borghi montanari o fai l'alcolista o fai sport agonistico o ti suicidi. Per buona parte dell'anno fa un freddo insopportabile, non ci sono cinema, librerie, i pochi videonoleggi tengono solo film d'azione americani. I magistrati non tengono conto di questi attenuanti, non tengono conto della natura umana. Uno dei centri federali visitati da Giulio è in questo paese. Giulio mi ha chiesto di interrompere l'assunzione di EPO, proprio adesso che sto perdendo condizione, proprio adesso che volevo aumentare le dosi. Martedì scorso dalla finestra del bagno ho visto Roberto e Giulio parlare. Erano alterati. Dal labiale ho tradotto solo il mio nome, nient'altro. Ci sono cose inevitabili che non danno emozioni. Film che scorrono senza colpi di scena. Continui déjà vu. Francesco Radaelli, nel 1990, a 16 anni, aveva corso gli 800 metri sul filo degli 1,50, accarezzando quel muro per eccesso, 18 centesimi. Era una sera di luglio. A Bologna si teneva il Fidale Stata, una manifestazione in cui atleti di categoria giovanili, per deroga federale, potevano gareggiare insieme agli assoluti. Le batterie erano sancite in base ai tempi di accredito, i primati personali, nessun criterio legato all'età. Rado avrebbe corso nella prima serie, la più veloce. Il miglior atleta presente vantava 1,48,56, poi via via fino al suo 1,52,14, ottenuto due settimane prima smettendo di spingere negli ultimi 50 metri, in assenza di avversari che potessero metterlo in difficoltà. In quel momento nessun coetaneo in Europa avrebbe potuto gareggiare su quei livelli. In Italia, nella stagione, aveva vinto tutto senza mai tirare il rettilineo finale, come se fosse la cosa più naturale che potesse succedere, senza gioia né coscienza. Quella sera una lepre, chiamata da Giulio, scesa appositamente da Torino, si era incaricata di portare il gruppo fino ai 500 metri, poi si era allargata per spegnersi sull'erba esterna al tartan. Le mani sui fianchi e lo sguardo alto, verso il treno che sarebbe arrivato a destinazione senza di lui. Due atleti delle Fiamme Gialle avevano preso il comando fino a 650 metri, con una lieve flessione del ritmo impostato dalla lepre, quantificabile attorno al secondo ogni 100 metri. Rado aveva recepito nel cervello e nelle gambe quel calo. Era subentrato in testa a metà dell'ultima curva, facendo metri in più, inquieto, senza aspettare il rettilineo. Era affondato solo negli ultimi 20 metri, risucchiato da due atleti militari e da un giovane marocchino che di lì a pochissimi anni sarebbe stato maratoneta di livello internazionale. Rado, dopo l'arrivo, si era steso schiena a terra, scosso da tremori, con la faccia rigata di sudore. Giulio lo aveva raggiunto gridandogli il tempo nell'orecchio destro, mentre la lepre che aveva tagliato il campo lo confermava dal sinistro. Rado non aveva ancora aperto gli occhi e teneva le dita intrecciate sul viso. Lo speaker della serata aveva dato il suo tempo, prima di quello del vincitore, sottolineando la sua età. Solo in quel momento Giulio si era reso conto che il viso di Rado luccicava di lacrime, non di sudore. «Tutto a posto? È assurdo! Cazzo dici, il tempo che hai fatto? La fatica? Ma sei scemo? Gli ultimi 100 ho visto tutte le cose brutte della mia vita. Ho le formiche nelle gengive. È normale, è l'acido lattico. Domani passa, ti renderai conto di quello che è successo stasera, di quello che succederà, e avrai voglia di lavorare duro in pista. Sotto l'1,50 negli 8, la vita ha altri colori. Ne dubito. Rado avrebbe corso ancora un paio di settimane, 13 allenamenti in tutto. Poi per l'atletica sarebbe sparito. Sarebbe rimasto nei racconti, nella leggenda dei frequentatori della pista. Era lo stereotipo dell'atleta di talento smisurato, inadatto a ogni tipo di disciplina. Il buco nero di Giulio, il diamante gigante che gli era capitato sotto le mani, scappato ancora grezzo. Rado aveva vinto due titoli lombardi di corsa campestre con due allenamenti settimanali. La mattina si presentava tardissimo, a poche decine di minuti dalla partenza in evidente deficit di ore di sonno e con gli occhi cerchiati di viola. Partiva senza quasi fare riscaldamento. Nei pressi dell'arrivo si aggiravano, alternandosi di gara in gara, annoiate ragazze insensibili alle sue vittorie, schifate dall'ambiente, da tutto quel fango e quel sudore. Rado a settembre avrebbe dovuto raggiungere un centro federale nel Lazio. Giulio aveva predisposto un programma di allenamento concordato con il professor Erano previste integrazioni farmacologiche, in particolare un trattamento a base di globulin, specifico per l'aumento dei globuli rossi. Il suo posto sarebbe stato preso dalla lepre piemontese. Rado si era occupato di public relation per discoteche e lounge bar, entrando in società per la gestione del primo club privé della zona, chiuso da un provvedimento della questura 2 settimane dall'inaugurazione. Aveva fatto qualche comparsata in un programma televisivo pomeridiano. Un manipolo di pretendenti se lo contendeva in prove umilianti. Sedeva su un trono di velluto rosso e oro, con la mano sinistra reggeva il mento, assisteva impassibile al degrado delle femmine. Recitavano poesie, eseguivano balletti acrobatici, elaboravano fantasiose dichiarazioni d'amore. Per liquidare una concorrente che aveva interpretato un personaggio di Ibsen, Rado aveva detto: «Sono un tipo sportivo, evito il teatro, a meno che non abbia problemi a prendere sonno». Le sue sentenze erano rette da una sana normalità, una semplicità contadina che negava ogni stravaganza. Ripudiava ragazze troppo vistose. A mamma non sarebbe piaciuta questa tutta pitturata e mezza nuda. Si rigirava tra le mani un crocifisso che spariva nel crepaccio dei pettorali. La mascella conteneva a stento un sorrisetto malevolo che riempiva il video. Gli occhi scintillavano, come quando correva 800 metri in 1,50, ma erano ancora più scuri, punte di spillo ficcate in un baratro. Le ragazze si scioglievano in lacrime ai suoi rifiuti vagamente circostanziati e poco diplomatici. Il pubblico in sala applaudiva e rideva seguendo flussi umorali ordinati, ma in apparenza molto spontanei. Le donne di mezza età parevano adorarlo. Era apparso in un paio di film natalizi e le sue foto infestavano la stampa scandalistica. Il suo nome era entrato in un'indagine su un traffico di cocaina tra i Balcani e la Puglia, sua regione d'origine. Qualche settimana in carcere, poi un lungo periodo in comunità. Il recupero seguito passo passo dalle telecamere dello stesso programma che lo aveva incoronato re per una stagione. Molti pianti, buoni propositi recitati a giornaliste piacenti, raccomandazioni ai giovani. Nessun altro doveva cadere nel girone del suo inferno. Voci sempre più insistenti lo davano legato sentimentalmente al suo agente, una specie di budino di carne marcita che gestiva carne fresca da spacciare tra salotti e camere da letto. La notizia giustificava le reginette rifiutate. Un provvedimento di indulto gli aveva risparmiato altri gradi di giudizio processuale. Non so se Giulio fosse a conoscenza del segmento di vita di Rado dopo l'atletica. Ha sempre detto di non avere la televisione. Quella scatola fa male a due cose, diceva. Tutte e due hanno due L, la seconda è il cervello. Al campo se ne parlava. Impossibile ignorare la storia. Durante gli allenamenti più stressanti c'era sempre qualcuno che se ne usciva con... Rado, sì, quello sta bene, la s'allunga lui, e noi qua a farci il culo attorno a sta pista di merda. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.